America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero, raggiunto un accordo a Minsk, soddisfazione in America, caduta della tensione, le borse anche hanno fatto piuttosto bene, la Casa Bianca non avrà più, come dire, le pressioni per dover inviare delle armi, queste armi letali che lo stesso Barack Obama aveva detto di voler inviare. Sappiamo però che proprio Barack Obama non le voleva mandare, c'era un forte dibattito all'interno dell'amministrazione. Insomma, le cose improvvisamente si sono rasserenate. Sentiamo Putin. It wasn't the best night of my life, but it's a good morning, because despite all the negotiations difficulties, we agreed on the main thing. Presidente russo ha detto: non è stata la notte migliore della mia vita, ma è stato sicuramente un buon giorno, una buona giornata. Nonostante le difficoltà, siamo riusciti a trovare un accordo sulle questioni principali. Ecco, ce n'è una però su cui lo stesso Putin ha detto che l'accordo in realtà manca, sulla città chiave di Debaltseve, dove l'esercito ucraino sarebbe stato accerchiato dai separatisti. Si parla di 8.000 uomini. Il presidente ucraino invece dice no, non riconosce che l'esercito sia accerchiato. Perché vi dico questo? Perché si dovranno stabilire al cessate il fuoco dei punti di confine teorico. Sentiamo Poroshenko. I can say that everything was difficult and in fact various unacceptable conditions were put to us, conditions of retreat, of surrender. We did not succumb to a single ultimatum and clearly defended our position that a ceasefire be announced without any preliminary conditions. Poroshenko dice: non è stato semplice, sono state offerte all'inizio condizioni inaccettabili, ma non abbiamo voluto sottoporci a un ultimatum. La principale cosa che abbiamo concordato è il cessate il fuoco senza condizioni. Dunque ognuno che cerca di tirare acqua al suo mulino. Poi la dichiarazione della Casa Bianca, che dice che l'accordo rappresenta un passo potenzialmente significativo verso una soluzione pacifica del conflitto. Che cosa prevede questo accordo? Beh, il ritiro delle truppe straniere da tutti i territori ucraini, il cessate il fuoco alla mezzanotte di domenica, l'Ucraina che avrà pieno controllo sui confini territoriali, ma che dovrà fare anche delle modifiche costituzionali per cedere autonomia territoriale alle zone che sono popolate dai russi. Ultimo elemento non secondario, il Fondo Monetario Internazionale ha detto che darà 17,5 miliardi di dollari subito all'Ucraina per poter andare avanti. Questo fa parte di un pacchetto di 40 miliardi. Ecco, la sfida adesso direi è proprio quella di ridare stabilità non solo politica ma anche economica a questo paese. Ma io vorrei andare direttamente sul posto, vorrei andare direttamente a Minsk, dove questo accordo finalmente è stato raggiunto e dove c'è un nostro vecchio amico, vecchia conoscenza, Paolo Valentino, inviato del Corriere della Sera. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Beh Paolo, insomma, avete finito una maratona non da poco, perché mi pare che tra la notte, l'alba, insomma, non finiva più. Ti confesso che sono un po' provato. È stata praticamente una maratona senza soste per ben 16 ore. È un accordo stabile su cui si costruirà la pace o è una pausa? Ma la stabilità dell'accordo è tutta da verificare alla prova dei fatti. Ho visto però nei leader la volontà di giungere a una conclusione positiva in tutti, soprattutto nella signora Merkel, nello stesso Putin. Ognuno dei protagonisti ha concesso qualcosa, si è impegnato. Se non ci fosse stato un accordo questa mattina, il filo del dialogo, della diplomazia sarebbe andato irrimediabilmente perduto. E questo è il vero, diciamo, valore aggiunto di quello che è successo questa notte. Tu condividi che forse siamo arrivati al punto in cui la razionalità dovrebbe prevalere sull'irrazionalità? Ma credo che tu abbia... Scusa se ripeto la stessa parola, ma vorrei citare l'espressione della signora Merkel. Abbiamo un barlume di speranza, cioè questo negoziato, questo risultato ci dà un barlume di speranza, il che non significa che il conflitto ucraino è risolto. Ci sono ambiguità, riserve mentali, ci sono sicuramente dei nodi non risolti, come dimostra anche la stessa iconografia, se vuoi, del successo che è stato raccontato da tre conferenze stampa separate. Ognuno dei protagonisti ha ritenuto di dover fare una conferenza stampa separata per spiegare il suo punto di vista dell'accordo. E però, nonostante questo, l'accordo ci dà un barlume di speranza. In questo senso, sono d'accordo con te, la ragionevolezza dovrebbe cominciare a prevalere. Ecco Paolo, io l'ho visto da lontano, l'ho visto nelle fotografie, mi capita ogni tanto di andare a questi eventi, questo era fuori dalla mia tra virgolette giurisdizione, ma tu c'eri e mi ha colpito questo palazzo di Minsk in Bielorussia, questo paese che così appartiene un po' al vecchio comunismo, Lukashenko, questo capo che è così un po' misterioso, marmi, specchi, dorature, ma raccontacelo, ma è un bellissimo palazzo davvero, insomma tu ci sei andato. Fra me e te un palazzo terribile, è un edificio smisurato con delle stanze, che con dei saloni che non finiscono mai, con i soffitti alti 15 metri e le stanze lunghe 50, candelabri, lampadari, marmi. Ma risale, è un vecchio palazzo degli zar? No, no, è un palazzo che Lukashenko ha voluto costruire a sua maggior gloria e che è stato completato nel 2013 proprio per ospitare avvenimenti internazionali. Ah, quindi adesso, cioè insomma, voglio dire, un anno e mezzo fa. In realtà di avvenimenti internazionali ne ha ospitati pochini e questa è stata forse la prima occasione, anche perché non dimentichiamo chi è Lukashenko, perché poi nel gioco delle parti o delle parti rovesciate che è stato, se vuoi, innescato da questa trattativa, tutti hanno dimenticato che il padrone di casa è uno dei dittatori più efferati, che lui stesso credo che sia sottoposto a sanzione, a una serie di sanzioni, ma per un giorno e mezzo ha fatto dimenticare se stesso e invece che si è fatto mallevatore della pace, ospitando e accogliendo nel suo grande palazzo i potenti del mondo che hanno ridato un barlume di speranza alla crisi ucraina. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su meria24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo arrivati alla quinta puntata dei Grammys, premi Grammys. Vi ho dato sempre una lista di canzoni, il miglior disco, la miglior canzone rock, eccetera, eccetera. E oggi, ultimo giorno che è dedicato ai Grammy, la diamo alla migliore interpretazione pop di un duo o di un gruppo. E dunque la performance di Great Big World con Christina Aguilera con la canzone Say Something. And I will stumble and fall. I'm still learning to love. Just starting to crawl. Say something. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.